cuore e denari. I consigli della settimana. E quando viene buio, arriva l'altro, furtivo nella notte, arriva l'altro. E torniamo a parlare anche questa settimana del complesso rapporto genitori-figli e portiamo, come sempre, la nostra trasmissione in famiglia. In linea con noi Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, che tutte le domeniche condivide con noi pensieri e riflessioni, partendo come sempre da un fatto di cronaca o da un evento che ci ha particolarmente colpito e che naturalmente appartiene all'attualità. Alberto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, buona domenica a tutti. Ciao Alberto, la notizia di questa settimana ha colpito molto anche me e Deborah, ci ha fatto un po' cadere la mascella, esatto, come si dice. Come si suol dire. Ai tempi nostri queste cose non sarebbero mai state possibili. Nella fantascienza. Invece di questi tempi è abbastanza frequente che i genitori più di una volta prendano le difese del figlio, ma non voglio anticipare troppo. Alberto, racconta tu la notizia che ha catturato la nostra attenzione e diventa protagonista della nostra riflessione a voce alta di oggi. Ma sì, è un fatto successo in una scuola secondaria di primo grado, cioè le vecchie scuole medie, in provincia di Forlì. C'era un ragazzo che guardava foto hard sul proprio cellulare nel tempo della scuola all'interno dell'edificio scolastico. È stato intercettato da un insegnante che ha applicato la regola della scuola, il protocollo proprio della scuola, che è quella di, in casi di questo tipo, un po' sequestrare il cellulare all'alunno e proprio confiscarglielo, per cui per avere indietro il cellulare bisogna che l'alunno si ripresenti con i propri genitori, ci sia una conversazione educativa e a quel punto, ridefinite bene le regole, l'alunno può avere il proprio cellulare. Invece quello che è successo è che la mamma si è presentata a scuola non col figlio, ma accompagnata da un avvocato, sporgendo denuncia per furto nei confronti del cellulare del figlio. È una notizia che ha lasciato sicuramente molto colpiti molti di noi. Mi pare peraltro che sia la seconda volta nel giro di poche settimane che ci troviamo a dover commentare un fatto simile, Alberto, no? Che riguarda un genitore che si presenta con un avvocato a scuola per ottenere giustizia. Sì, questo direi che è proprio in parte quello che davvero fa notizia, cioè il fatto che in qualche modo la scuola a questo punto diventi una sorta di nemico per la famiglia, e non in relazione ad aspetti didattici, cioè cattivi voti, una bocciatura, un fallimento scolastico, ma proprio in relazione a fatti educativi, a qualcosa che sta succedendo nella vita del figlio rispetto al quale la scuola magari utilizza delle regole che non sono compatibili con il sistema di regole o di valori della famiglia. Direi che in questo caso, tra le altre cose, guardando un po' tutta la situazione con gli occhi di un figlio, penso che l'insegnamento grosso che arrivi un figlio è che non c'è una regola, ma ci sono tante regole diverse, e che alla fine un figlio si può proprio un po' orientare verso chi gli offre le regole più comode, più facili, più vantaggiose. La mamma dà un insegnamento al figlio che è quello di non devi soffrire, non tollerare alcuna frustrazione, io ti proteggerò sempre e comunque, magari andando proprio anche contro le regole che la scuola ha stabilito, non solo per te, ma per tutti gli altri studenti. Tra l'altro, Deborah, noi parliamo di rapporto di genitori e figli in questo spazio di domenicale di Cuore Denari, ma poi ci sarebbe da commentare anche l'avvocato. Ti sembra che un avvocato... Che si presta a un intervento di questo tipo, e d'altronde, sai, una professione nata appositamente per questo, a volte si difende anche l'indifendibile. Allora, dimmi tu, Alberto. Cioè... Guarda, io devo dire che anche per me la figura dell'avvocato è forse di tutti l'anello più debole della catena, perché da una parte Deborah ha ragione, cioè anche l'assassino, no, ha diritto a un avvocato, però questo succede in un tribunale, cioè in un luogo dove si deve fare una giustizia rispetto a un codice che è il codice della legge, cioè la scuola non è un tribunale ed è proprio un luogo dove si costruisce un'alleanza tra famiglia e docenti, cioè un'alleanza tra adulti che è volta alla protezione dei minori che sono soggetti in formazione, soggetti vulnerabili, per cui secondo me un avvocato avrebbe dovuto proprio sentirsi questa volta parte non di un sistema legale, giuridico, istituzionale, bensì parte di una comunità educante. Guarda, evidentemente io penso che abbia colto la portata di questa situazione e forse ha avuto, come dire, l'idea di trovarsi e cercarsi un po' di visibilità. Adesso me ne assumo la responsabilità di quello che dico, però il sospetto viene, non so cosa ne pensiate. Sì, io l'idea è venuta anche a me, mi sarebbe più piaciuto pensare a un avvocato come una figura che dice: signora, forse non è il caso, cerchiamo di venirci incontro, rivalutiamo un po' la situazione. Comunque, lasciamo stare l'avvocato e torniamo alla nostra mamma che dimostra di aver compreso davvero, non aver compreso direi, non solo compreso poco, il senso dell'intervento educativo. Sì, e credo che su questo non ci stancheremo mai di ribadire che più la comunità degli adulti si presenta confusa di fronte alla comunità dei ragazzi, più i ragazzi davvero non capiscono niente. Fare un'alleanza comune tra adulti, offrire una visione del mondo condivisa ai nostri figli, fare un po' alleanza con i docenti quando fanno un buon intervento educativo è protettivo per tutti, non solo per i nostri figli ma anche per i figli degli altri. Devo anche dire tra l'altro che in questa situazione specifica poi c'era un secondo passaggio che era visionare materiale pornografico all'interno dell'edificio scolastico, per cui c'era un secondo fattore che andava molto attenzionato e rispetto al quale secondo me è passato scuola invece in secondo piano. Esatto. Ma sicuramente diventerà occasione di riflessione e di spunto per altri incontri con Alberto Pellai. Volentieri, Alberto. Nel frattempo naturalmente siamo arrivati al tuo momento per i consigli di lettura. Ma per quest'oggi ho pensato che agli adulti consiglierei di leggere un saggio il cui titolo è tutto un programma, Immaturità. L'ha scritto Francesco Cataluccio, edito da Einaudi, e secondo me è proprio una parola chiave, l'immaturità degli adulti, molto ben raccontata dentro questo saggio, fa un po' da specchio poi a una maturità mai conquistata anche da parte dei nostri figli. Ai ragazzi invece consiglio un libro che ho scritto io insieme a Barbara Tamborini, è proprio un libro per ragazzi, Lasciatemi crescere in pace, che vuol dire non lasciatemi fare tutto quello che voglio, bensì aiutatemi ad acquisire un buon navigatore che mi permetta di orientarmi nella vita per conquistare un buon progetto per la mia esistenza. Alberto, siamo quasi in chiusura, però questa curiosità con te me la voglio togliere perché ce l'ho un po' che mi stimola da qualche tempo. Tu ci suggerisci sempre un libro per gli adulti e un libro per i ragazzi, ma i ragazzi sono interessati a questo tipo di letture che tu proponi? Ma devo dire che supportati dalla scuola, sempre e comunque quando è un dovere, moltissimi adolescenti leggono davvero tanto, non per niente poi i libri per ragazzi sono quelli che in questo momento vendono di più. Editoria. Va bene, noi continuiamo, coltiviamo buoni lettori. Esatto. E ci guadagneremo tutti. Grazie. E diciamo due cosine anche a qualche avvocato perché magari meritano. Lo inviteremo una volta. Volentieri. Allora, a proposito di pace, lasciamo in pace Alberto a godersi esatto. la sua domenica. Grazie Alberto Pellai. Grazie a voi, buona domenica a tutti. Buona domenica anche a te Nicoletta. Anche a te Deborina. E noi torniamo domani alle 11 con Cuore Denari. Buona domenica.